later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli l'estate tarda a manifestarsi, Kappa e Drago introducono un nuovo spunto di riflessione. Drago, cosa fai? No, i batteristi. I batteristi? No, i batteristi, Drago, sono la rovina delle band. Perché i batteristi? I batteristi? Ma dai, ma povero Ringo Starr, povero Charlie Ringo Watts. Keith Moon, non mi sembra che abbiano mai fatto del male a nessuno, tranne che alle batterie, insomma. No, ma le capite, le Rolling Stone, i Beatles, sto parlando di band di amici, no? Band di amici. Il 90% di band di ragazzi si scioglie nei primi 10 mesi di attività per colpa dei batteristi. Ma ne sei sicuro? Sì, ho i dati di un sondaggio open source copyleft file sharing all together now. Ma sì? Sì, guarda, un sondaggio libero e fantasioso. Come si usa adesso, Drago? La fuzzy logic usata alla brutto cane, ecco, questo è il sondaggio. Insomma, questo sondaggio, questa ricerca inaccurata e lacunosa dice che il 90% delle band si scioglie quasi subito a causa del batterista. Vabbè, ma nel senso che il batterista molla il gruppo e il gruppo no, si scioglie? No, nel senso che il gruppo molla il batterista. Non capisco. Drago, il batterista è merce rara e già per quello fa razza a sé, un po' come i portieri, capito? Eh sì, è vero, non trovi mai nessuno che vuol fare il portiere. E poi il batterista arriva sempre in ritardo alle prove, deve ancora montare lo strumento. Vabbè. Ci mette mezz'ora a montare lo strumento. Beh, ci poi credo. Mentre monta lo strumento lo prova, per cui fa un inferno, non si riesce a cominciare a provare. Il batterista è la rovina delle band. Ah beh, sì. Ma non solo, il batterista è anche quello che suona in 12 gruppi diversi contemporaneamente e allora ha un'agenda senza senso e per decidere il giorno delle prove è sempre come fare una seduta plenaria al Consiglio Generale delle Nazioni Unite. Pronto? Ciao, sono Kappa. Ciao. No, allora quando è che proviamo? Allora, abbiamo detto lunedì, no? Bisognerebbe mettersi d'accordo qui, perché sennò la band rischia di sciogliersi per colpa tua. Cioè sempre del batterista, sempre i batteristi. Ma come fai? Tipo il 22 luglio, tu ci sei? No, aspetta un attimo, non è che prendo delle agende qua, perché... Dunque, sabato questo, devo andare in Svizzera a suonare, è bene. Il 30 e il 31, che c'ho due saggi dalla scuola. 14, 15, 16, sono 14 a Milano, tra parentesi, non so dove... però Milano. Invece il 15 e 16 sono andato con un trombettista americano qui dalla mia parte. Poi c'ho il 23 con una big band e poi con Giorgio il 29 ad Asti. Andiamo a luglio. Allora, 6 e 7 sono il 6 a Cambiano, il 7 a Modena, poi il 13 a Torino, il 19 in Germania, non so in che posto, bene, e il 21 a Baveno. Agosto c'ho solo due giorni impegnati, 25 e 26. Pure. Senti, magari ci mandi una mail che è più facile. Ah sì? Ah, io credevo che avessi già segnato tutto, che ci avessi l'azienda sotto mano. E poi il batterista è quello che non scrive mai le canzoni, però ha sempre lì qualcosa da dire sulle canzoni scritte dagli altri. È un inferno. Ma madonna, ma è proprio così il batterista? Sì, per quello che il batterista dura poco, Drago. E con lui dura poco l'intera band. Ma com'è che si chiama questo fenomeno? La sindrome del batterista. Forse è il batterista che fa sempre gli assoli, E gli assoli di batteria che ci sono sempre sul quarto lato del disco doppio, no? No, cosa? Ma Paul, tu sei rimasto al vinile. Sì, vabbè, certo, doppio. No? Cioè, quando usciva un disco doppio, no? Tipo Made in Japan, no? Dei Deep Purple. E sul quarto lato mettevano sempre la canzone, quella di 20 minuti, no? Quella con gli assoli di tutti i componenti. Sì, lo sappiamo. Quanto vinile sprecato, oltretutto, no? Ma come? Come? Ma guarda che a suo tempo il gruppo era figo solo se aveva il batterista figo, Vabbè, sì. Come Emerson, Lake e Palmer, E Palmer era bravo, sì. E quello andava di brutto, O Phil Collins dei Genesis. È bravo Phil Collins. Vabbè, ma cosa c'entra? Come cosa c'entra? Poi Phil Collins non ha mica fatto sciogliere Genesis, eh? Anzi, lui li ha fatti rinascere quando Peter Gabriel se n'è andato. Beh, sì, vero, ma, sì per, d'accordo, ma Peter Gabriel perché se n'è andato via? Perché c'era Phil Collins che voleva fare il leader, che era il batterista, e quindi hanno litigato e lui se n'è andato. Quindi tutta colpa del batterista alla fine, come sempre così. Per forza, nessun rimedio è stato mai trovato contro... La sindrome del batterista. E poi se vai a vedere, la nomea negativa del batterista risale al secolo scorso, Drago. Ma perché c'erano i batteristi nel secolo scorso? Ma sì, scusa, pensa alla figura del tambur maggiore nel Wojciech di Georg Büchner, E la figura del cattivo, certo, sì. Un gradasso che non si fermava davanti a niente, suonava il tamburo continuamente, anche davanti alle donne sposate. Ma i batteristi sono dei Don Giovanni. Suonano sempre a torso nudo e alla fine del concerto fregano le donne e i chitarristi. Così. Ma no, ma non è vero. Drago, il chitarrista è l'unico detentore del potere di una band. Apparentemente. Infatti brandisce con le mani la chitarra, capito? Che è il prolungamento del suo pene. Sì, vabbè, e l'ukulele allora cos'è? Un riassunto del prolungamento del tuo pene. L'ukulele è il dono della sintesi. La fabbrica di polli. Buonanotte a tutti. La frequenza incasinata da Radio Rockmanston. General Sparahar, premiato famiglia del kamikaze più spettacolare di questo primo semestre. Dopo lungometraggio di 3 ore con tutte filmate di kamikaze prima di attentato e poi foto di kamikaze dopo di attentato, e cioè pezzi di kamikaze di carne maciulati con scarpe e pantaloni, giuria ha espresso suo giudizio insindacabile e premiato vedove di valorosi patrioti arcmeni con medaglia e nota d'amore con generale in persona. In caso di martire senza moglie, generale ha accontentato di premiare sorella di martire. In caso di martire senza moglie, senza sorella, generale ha annullato premio. Ma scusa, ma quando eri fuori dalla fabbrica alla fine facevi una vita tanto diversa da quella che fai qui? Eh beh, certo, che domanda. Ma in cosa era diversa? Eh beh, innanzitutto non ero costretto a girare a piedi per uno stabilimento aviario. E già questa è una bella differenza, o no? Ma scusa, quindi una differenza è determinata dallo spazio, dal luogo? Mi sembra evidente. Hai visto, c'è Joao anche. Ehi, Joao. Fama, guai. Vabbè, dai. Anche lui è determinato dal luogo, dallo spazio. Ah sì? Non ho solo capito. Fame. Fame, vabbè. Vabbè, ma invece le differenze dovute al tempo? Cioè? Cioè, quando non eri qui, eri più giovane. Sì, beh. Hai compiuto 40 anni, Drago, qui in fabbrica. Hai girato una boa. Non senti nessuna differenza. Vabbè, che ne so, dovrei vedere me stesso quarantenne, cioè adesso, a confronto col mondo di fuori. Io non ho termini di paragone adesso. Però certo che mi accorgo che gli anni cominciano a passare in fretta e ogni anno che si aggiunge pesa un po' di più. Certo. Però sono anche sicuro che una volta fuori di qui ringiovanirei all'istante. Ah sì? Uè, raga! Ma no, ma non così giovane. Ma perché? Dai, è figo tornare adolescente. Mica tanto, Perché? Proprio adesso che i genitori hanno il kit per vedere se ti sei drogato. Giumbia, è vero. Che pacco. Te lo dicevo. Però ormai è così. Ci toccherà pisciare in un botticino e fare una figuraccia. Beh, però io ho il mio ukulele. Ah, beh, allora. Che in realtà è un cavacchino, ma l'ho accordato come un ukulele. Sai che so suonare Smoke on the Water sul mio cavacchino che è accordato come un ukulele? Ma fai anche la solo di batteria di Smoke on the Water. Sei bravo, Però aspetta, dai, cappa, la sai mangia fuoco? Di chi? Di Bennato. Cosa succederà adesso? Kappa e Drago resteranno adolescenti per sempre? E se sì, i loro genitori li sottoporranno al test antidroga? E se sì, risulteranno positivi? La scontata risposta a quest'ultimo interrogativo domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo prepubescente allestimento de... La fabbrica di polli produce... Non chiude... Non chiude... La Fabbrica di Polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La Fabbrica di Polli è trai.it, barlumen.com.